as you're born, they make you feel small. Per il rispetto del lavoro. Insomma, noi vogliamo il pane, ma vogliamo anche le rose. Working class hero is something to be. Eccoci qui, siamo ad Il Pane e Rose, Radio Città Fujiko. Per chi non ci conoscesse, siamo la trasmissione, per chi ci ascolta la prima volta, anche se sono ormai un po' di anni, che trasmettiamo il martedì all'1:30 qui su Radio Città Fujiko. È la trasmissione dei lavoratori, in cui si parla soprattutto di lavoro. Si parla di contrattazione, di lotte, si parla di buoni accordi, pessimi accordi, licenziamenti. Ci occupiamo anche di arte, cerchiamo di intervistare anche lavoratori cosiddetti atipici, non i classici metalmeccanici, ma cerchiamo di parlare anche di lavoratori precari, di lavoratori autonomi. Abbiamo fatto diverse puntate raccontando un po' le varie vicissitudini dei riders, di chi lavora nelle cooperative, dei facchini. Oggi però parlo io, sono quelle puntate in cui normalmente noi non facciamo interviste, affrontiamo argomenti, approfondiamo argomenti che sono oggi davanti a noi. Io sono un metalmeccanico, parliamo spesso delle nostre condizioni, dei nostri accordi, dei nostri contratti, e dobbiamo fare un po' il punto della situazione. Dobbiamo, insomma, capire, anche perché molti metalmeccanici ci seguono, cosa accadrà nel prossimo mese. Quello che è successo, quello che è stato deciso, visto che io sono stato a Roma il 17, in cui si è discusso di come andare avanti, e dobbiamo capire cosa ci aspetta questo contratto, se riusciamo o meno a portarlo a casa. Ecco, adesso ci ascoltiamo un pezzo stupendo, bellissimo, come solo il Pane Rose sa fare. Scherzo. Però poi parliamo un po', insomma, di noi operai metalmeccanici. No se os intento, paiso astro mudo, batendo asas, na noite calada. Venien en bandos con pez de veludo, chuparo sangue fresco da manada. A todas partes llegan los vampiros, posan los predios, posan las calzadas, traenos el ventre de esposos antiguos, mas nada os prende las vidas acabadas. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada. Eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, nada de nada. Echando medo, toman los vencidos, oen sus gritos, na noita papada, sacen los fosos, víctimas de un credo, e no se esgota, o sangre da manada. Son los mordomos do universo todo, amos a forza, donos en ley, enchen las tuyas, beben viño novo, danzan a ronda, no pinal do rey. Eles comen todo, eles comen todo, eles comen todo e non deixan nada, eles comen. mangiano tutto e non lasciano niente, mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente, niente di niente, mangiano tutto, mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente, mangiano tutto, mangiano tutto e non lasciano niente, niente di niente. Allora, abbiamo ascoltato questo pezzo stupendo che io amo tantissimo, che metto spesso. Stiamo parlando di Noah, Vampiros, insomma, per ricordarci con chi abbiamo a che fare. E tornando a noi, dobbiamo fare un po' il punto della situazione. Per chi non conosce la nostra vicenda di noi metalmeccanici che in lotta in questo periodo a livello nazionale per il rinnovo, abbiamo fatto degli scioperi perché c'è stata la rottura del tavolo. La rottura, voglio essere ben preciso, perché qualcuno mi ha chiesto: ah, ma avete rotto quel tavolo? Hanno rotto la Confindustria il tavolo. In realtà spieghiamo ai nostri ascoltatori cosa è successo. Abbiamo presentato la piattaforma in cui c'è un aumento che chiediamo di 280 euro e tutta una serie di altre questioni importanti, come la riduzione dell'orario a 36 ore e altre questioni legate sugli appalti, abbiamo fatto delle proposte di limitazione del precariato e tante altre questioni. Questa piattaforma è stata discussa, ma mese scorso c'è stata la rottura. La rottura c'è stata perché Fenermeccanica cosa ha fatto? Ha presentato una sua contropiattaforma, una contropiattaforma irricevibile. Vogliamo un attimo essere precisi su questo. Fenermeccanica fondamentalmente ha proposto una piattaforma che sull'aspetto salariale non prevede delle cifre fisse, sicure. C'è dentro la testa di Federmeccanica, c'è una situazione in cui il contratto nazionale non si può chiudere con una cifra fissa più la cosiddetta regola di salvaguardia che noi abbiamo, che prevede, laddove ci sia un aumento dell'inflazione superiore a quello previsto dell'IPCANEI cosiddetto, ci sia un adeguamento della rata prevista di aumento. Infatti non so se lo sapete, ma noi nell'ultimo contratto siamo partiti firmando 100 euro, ma a causa dell'inflazione altissima siamo arrivati a prendere fino a 320 euro al quinto livello. Insomma, Federmeccanica, la sua contropiattaforma, ha detto chiaramente che se noi vogliamo avere una specie di aumento legato all'IPCANEI, ricordiamo, parliamo di scala mobile in questo caso, parliamo di un aumento, una clausola di salvaguardia che prevede l'aumento in base all'IPCA, che è un valore dell'inflazione senza energia importata, okay? Che prevede un paniere di beni tranne l'energia importata. Sapete benissimo, questo significa in questo momento che non è un'inflazione reale molto lontana. Beh, loro dicono se c'è questa volontà di continuare con questo meccanismo non ci possono essere cifre fisse. Non ci possiamo mettere d'accordo, in questo caso 280 euro è una cifra, cioè proprio per loro, senza nessun punto di riferimento. Loro vorrebbero darci solamente gli IPCANEI e fare, hanno fatto una serie di proposte come quella di anticipare gli scatti di anzianità a livello salariale, e fatto tutte delle proposte inaccettabili che fondamentalmente vanno a colpire direttamente, come anche addirittura la questione di non dare il premio di risultato nel secondo livello di contrattazione. Noi metalmeccanici abbiamo due livelli, il contratto nazionale e il secondo livello di contrattazione, che ripeto che purtroppo in Italia veramente solo il 20% delle aziende riescono a fare il secondo livello di contrattazione. Ecco perché è così importante rinnovare il contratto nazionale. Insomma, queste proposte, questa contropiattaforma rivendicata, addirittura a Bologna Federmeccanica ha fatto un volantinaggio in alcune aziende pubblicizzando questa contropiattaforma e dicendo che era una contropiattaforma ragionevole, ha fatto sì che FIOM, FIM e WILM, i tre sindacati confederali dei metalmeccanici che siedono al tavolo di trattative, che sono quelli che poi conducono le trattative, sono alzati, hanno detto, e è stato programmato tra il mese di dicembre e gennaio, dal 15 dicembre, diciamo un po' prima, e il 15 gennaio, 8 ore di sciopero. Le abbiamo fatte, ne abbiamo anche parlato in radio, sono state 8 ore di sciopero che sono riuscite, ci sono state anche dopo la manifestazione del 29 della CGIL, c'era una grossa voglia di lottare. La FIOM, FIM e WILM hanno fatto una scelta, io credo, corretta, quella di non fare la classica manifestazione in piazza per chiedere il contratto o gli scioperi di 4 ore fatti il venerdì, ma si è chiesto dove era possibile di fare degli scioperi articolati. Parliamo di scioperi articolati nel momento in cui li facciamo un'ora, poi si lavora, poi un'ora, poi mezz'ora, sarebbero di scioperi realmente articolati come quelli che abbiamo fatto noi in fabbrica, in Bonfiglio Riduttore, in cui abbiamo fatto mezz'ora, poi un'ora di lavoro, poi un'altra mezz'ora, poi mezz'ora di lavoro, insomma li abbiamo articolati così, in più delle ore fatte con presidi davanti ai cancelli delle fabbriche e non in piazza, non in manifestazione. Questo nulla a sminuire l'importanza delle manifestazioni, ma si voleva veramente dare un messaggio chiaro alle aziende dicendo che noi vogliamo farvi il più male possibile, ed ecco perché gli scioperi articolati, ecco perché i presidi davanti alla fabbrica per cercare di non far entrare gli impiegati, chiedendo di non far entrare, a loro di non entrare, per poter fare il più male possibile. Questa è stata la nostra decisione. I territori in Italia che hanno utilizzato scioperi articolati e presidi davanti ai cancelli in maniera molto molto dura sono stati pochi, però in realtà, bisogna di essere onesti. Bologna, Reggio Emilia e Genova sono stati i tre territori in cui gli scioperi sono stati veramente articolati e, ripeto, presidi fatti davanti ai cancelli per far male, per colpire. E qualche azienda a Bologna si è sentita, insomma, colpita. Ci sono state delle dichiarazioni fatte sui giornali di alcuni amministratori delegati che hanno detto riapriamo il tavolo, cioè almeno hanno fatto capire che loro hanno bisogno di lavorare e hanno bisogno di riaprire il tavolo. Il tavolo ad oggi non è riaperto. È stato programmato altre 8 ore di sciopero, anche se si vedranno a febbraio per discutere, per vedere se comunque si riesce a trovare una soluzione prima di iniziare con le lotte di sciopero, che sono state già proclamate, da fare più o meno nella stessa maniera delle altre. Dunque si va avanti, questo è importante, si va avanti con l'idea di non fare delle passeggiate, di essere incisivi sui luoghi di lavoro, di essere più incisivi possibili sui padroni, per fare il più male possibile. Siamo in una situazione di cassa integrazione purtroppo dilagante, e dunque veramente fare gli scioperi di venerdì, fare gli scioperi le ultime ore in uscita, sono scioperi di comodo. I scioperi di comodo durante il periodo di crisi che stiamo vivendo in questo periodo, dovuti a tante ragioni, ne abbiamo parlato tantissime volte. Io lavoro in un'azienda che la geopolitica se la sente proprio sulle spalle, tutte le questioni di delocalizzazione, di questioni di... Adesso c'è anche Trump con i dazi, ma anche prima, quando c'era Biden, la guerra del canale di Suez, problematiche dei trasporti, pirati somali nel mare indiano, nel mare davanti alla Somalia, lo Yemen, i problemi, la guerra in Ucraina, le sanzioni alla Russia, l'aumento del gas, l'aumento delle materie prime, tutte queste questioni sono tutte questioni che stanno influenzando tantissimo il mondo dell'industria, della metalmeccanica, e stanno penalizzando il lavoro. C'è tanta cassa integrazione stiamo facendo, non solo da me ma in tantissime aziende, e questo chiaramente complica la situazione, ma non significa che dobbiamo mollare. Certamente Federmeccanica sa che comunque dovrà versare per gli accordi che noi abbiamo, per le clausole di salvaguardia che noi abbiamo, comunque l'aumento, un aumento insomma spalmato, sempre dell'IPCANEI, dovrà comunque versare. Adesso vedremo quanto sarà la quota di giugno, che a prescindere se viene firmato o meno il contratto verrà erogata. Ad oggi si parla di circa 170 euro in 3 anni, o in 4 anni, adesso mi sfugge, però non è detto, dipende molto dall'inflazione, ripeto, dall'IPCA, non l'inflazione reale, ma senza i beni energetici importati. Questo ci mette in difficoltà. La battaglia deve essere dura, la battaglia la condurremo se a febbraio non si sblocca nulla. Saremo decisi di lottare e stiamo aspettando di vedere come va questo incontro per poter fare una battaglia ancora più dura di quella che abbiamo fatto, sperando di estendere le articolazioni, i presidi, così come le abbiamo fatti a Bologna e un po' in tutta Italia. Ecco. Adesso ci ascoltiamo un pezzo stupendo e poi andiamo alle conclusioni. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win. For the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers, throughout the land. And don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changing. Allora, abbiamo ascoltato questo pezzo sperando che veramente tutto cambi e che veramente si possa cambiare. E volevo dire molto velocemente che quello che noi dovremmo in questo momento fare è cercare di lottare per un contratto nazionale che riporti al centro la questione del salario, dei diritti e della precarietà, cercando di andare verso la riduzione d'orario, cercando di riprenderci in mano, se si può, la riorganizzazione del lavoro, di incidere sulle questioni ambientali, quello che sta accadendo in Italia. Però, come io spesso dico, una battaglia sindacale senza una battaglia politica è una battaglia che fondamentalmente spesso è debole. Oggi abbiamo un governo che fondamentalmente rema contro. Il collegato lavoro non ci aiuta per quanto riguarda le nostre richieste per eliminare la precarietà, per non parlare quello che sta facendo il governo continua a non avere un piano industriale, dunque non aiuta l'industria, non sanno proprio cosa significa fare industria in Italia, e gli imprenditori fondamentalmente guardano la possibilità di andare all'estero, di investire in finanza, di mettere i loro soldi belli al sicuro, oggi li metteranno negli Stati Uniti d'America, visto quello che sta facendo Trump. La questione della guerra non ci aiuta, assolutamente, non vogliono fare la pace e questo per noi è un problema enorme. Non è solo una questione morale, etica, ma è una questione anche pratica. Noi metalmeccanici soffriamo tantissimo la guerra, tranne quelli che producono armi, ma il resto lo subisce direttamente, economicamente. Questo per noi è una questione di vita o di morte. Dunque, quello che io spero che venga fuori è che, oltre alla battaglia sindacale, che è legittima, che noi faremo, che è compito nostro farla, c'è bisogno di una battaglia politica da fare nei luoghi di lavoro, c'è bisogno di qualcuno che estenda questa battaglia, c'è bisogno anche di una battaglia confederale. Oggi vediamo che purtroppo i rinnovi contrattuali che vengono fatti non sono un granché, e questo stanno minando la nostra possibilità di ottenere un buon contratto nazionale dei metalmeccanici. Stiamo vedendo quello che sta accadendo, divisioni sindacali, firme separate, accordi, ne parleremo, abbiamo parlato anche su quello dei trasporti, no? Cioè, anche dove ci sono dei soldini, ma in realtà sono anni e anni di non mancato rinnovo e ci sono tutta una serie di condizioni che alla fine fanno sì che questi soldi non sono realmente giusti, assolutamente, ma sono una piccola parte, la stragrande maggioranza non viene distribuita. Ecco, io vi saluto questo messaggio sperando che si faccia più anche attività politica all'interno dei luoghi di lavoro,